Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa prima pillola di ecomobilità con Gringo. Io sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e qui con me ho il piacere di avere Federico Angeli, il proprietario di Gringo, che adesso ci dice due parole su un micro tema che trattiamo oggi, ecomobilità. Di fatto parliamo di ecomobilità. Allora, la prima cosa, intanto ciao Federico. Ciao a tutti e grazie per avermi ospitato. Grazie a te per essere venuto. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederti così è un po' il fatto che ci avviciniamo sempre di più al fatto della chiusura del centro storico di Bologna per sì. cercare di incrementare un pochino il discorso legato al trasporto pubblico, no? Quindi c'è questo implemento dell'utilizzo dei filobus, dei tram, e quindi di fatto il centro storico di Bologna verrà chiuso completamente come se fosse una roccaforte. C'è qualcuno sì. che è molto molto preoccupato da tutto immagino. Ciò. Non i pedoni, perché chiaramente si parla di così diminuire drasticamente il discorso dell'inquinamento atmosferico, però ci si chiede come si potrà girare in centro a Bologna. Quindi qui entra un po' la mia domanda. Tu ti occupi di mobilità sostenibile, ecomobilità. Cosa fa Gringo? Di cosa si occupa? Che cos'è l'ecomobilità? Allora, Gringo quello che fa è essere consulente di mobilità, per cui così come uno va, si rivolge a un qualsiasi consulente per avere una consulenza professionale, noi da 20 anni ci occupiamo di mobilità integrata, ovvero possibilità di interagire con i vari strumenti che esistono di mezzi di trasporto, privati ovviamente, per andare a creare la soluzione ottimale legata sia a un fattore di risparmio che ambientale. Relativamente alla tua domanda, allora è chiaro che noi siamo specializzati in velocipedi, per cui noi parliamo prevalentemente di e-bike e monopattini, che sono delle soluzioni alternative all'auto, mantenendo sempre il vantaggio della mobilità privata. Ecco che fino a ieri la mobilità privata era solo ed esclusivamente legata all'auto, cioè o allo scooter. Uno pensa, ok, vado in garage, prendo e vado in centro. E, è ovvio che domani questo sistema potrebbe non essere più vincente come lo è stato fino a ieri. Questo perché? Perché magari vengono limitati i costi. Gli spazi di parcheggio, perché probabilmente certe tipologie di vetture e di scooter non potranno più accedere per questioni di inquinamento ambientale, ma soprattutto anche perché esistono tecnologie oggi che hanno reso possibile una serie di strumenti di mobilità che fino a ieri erano impensabili. Basta pensare ad esempio a Mobike del esatto, comune di Bologna esatto. o Corrente. È vero, facciamo vendita e noleggio, ma il nostro core business principale, devo dirti, che è il noleggio. Quindi il noleggio cosa prevede? Prevede che tu vieni da Gringo, prendi un mezzo di mobilità sostenibile, che può essere un monopattino o un e-bike di qualsiasi tipologia, con la quale chiaramente cosa fai? Accedi al centro storico e la puoi tenere con te per un periodo di tempo che può essere limitato al tuo singolo spostamento, e qui allora potrebbe essere parificato, no, a un discorso di bike sharing uguale al discorso di Mobike, piuttosto che noi facciamo anche delle formule che sono weekend piuttosto che settimanale, mensile, plurimensile, addirittura facciamo anche il noleggio lungo termine, cioè lungo termine nel senso che noleggi da me una bicicletta per un periodo che magari è di 12, 18, 24 mesi, quindi praticamente nel canone mensile che tu mi paghi o nel canone di servizio che tu mi paghi hai comunque compreso tutto, quindi esternalizzi completamente a me tutto quello che è l'onere di gestione di una bici o di uno scooter elettrico o di un monopattino. Quindi di fatto io accedo al centro storico o lo attraverso per magari anche andare al lavoro, che è un po' il problema, diciamo, di tutti, quello della mattina, che è un sì. dramma. Pago meno perché non c'è tutta la parte legata anche al rifornimento, no? Perché stiamo parlando chiaramente di cose elettriche, quindi non si tratta di questo. Risparmio, sono ecosostenibile perché non sto inquinando sì. e soprattutto ho meno pensieri volentieri, quindi brava. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa che va implementato, cioè più una questione di mentalità, ed è per bravissimo. Questo che esistono i consulenti di ecomobilità come siete voi. Sì, esattamente. Io direi che per questa prima pillola abbiamo già lanciato tanti argomenti che chiaramente ci proponiamo di andare a sviscerare e approfondire meglio nei prossimi episodi. Tu cosa dici? Assolutamente, Federico? Sì. Perfetto, e ovviamente vi ricordiamo che Gringo si trova in via Bellaria e quindi Federico è più che contento di ospitarvi, di fare una chiacchierata con il suo team, anche Leonardo. Certo, tra l'altro per tutti gli ascoltatori Radio Fujiko, se entrano e ci dicono questo, c'è un gadget in omaggio. Attenzione. Grazie Federico. Grazie a voi.